2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in versione estiva. Per questo mese di agosto, poi torneremo alla programmazione tradizionale da settembre. 20.000 hackers o esperti di sicurezza informatica, ma devo dire che l'hacker è una cosa, l'esperto di sicurezza informatica è un'altra. Comunque, tante persone che si occupano in qualche modo di security hanno partecipato questa settimana alla 25esima edizione della DEFCON Hacking Convention, che si tiene a Las Vegas, il più importante appuntamento dedicato all'hacking, cioè alla capacità di bucare i sistemi più diversi, dalle tradizionali reti aziendali ai siti web, ma queste sono cose che ormai abbiamo visto tante volte, fino invece a cose più di attualità, Internet of Things, la Internet degli oggetti, tutte le cose che si connettono a partire ad esempio dalla casa intelligente, le automobili sempre più connesse e, novità di quest'anno, i sistemi di voto. Allora, per la prima volta è stato allestito un villaggio, l'hanno chiamato Hacker Voting Village, uno spazio con 30 macchine per il voto elettronico, fra le più diffuse al mondo, tutte diverse, l'una con l'altra. Già in passato è stato dimostrato che molti sistemi di voto elettronico sono vulnerabili e gli organizzatori della DEFCON hanno deciso di attirare l'attenzione su questo tema, visto che ultimamente sono molti gli stati, i partiti o anche altre istituzioni in tutto il mondo che stanno pensando di utilizzare il voto elettronico. Però ci sono una serie di problemi. Pensate che anche la regione Lombardia ha investito 23 milioni di euro per acquistare 24.000 macchine Smartmatic. Questa è la società, una delle società più note al mondo per la produzione di questo tipo di macchine per il voto elettronico. La regione Lombardia le ha acquistate per il referendum sull'autonomia del 22 ottobre. Allora, gli organizzatori della DEFCON, questa conferenza che si tiene a Las Vegas, dicono, ma non lo dicono solo loro, però questa settimana sono stati loro a dirlo in modo molto netto, che ancora oggi è più sicuro il voto cartaceo di quello elettronico, dove i punti di attacco sono pochi e considerando anche che la vittoria di un'elezione o comunque la capacità di influenzare un'elezione, quindi la vittoria, diciamo, la presa del potere di uno Stato, vale così tanti soldi che può giustificare un elevato costo di hackeraggio. Quindi se il mio obiettivo è influenzare il voto in una nazione, posso decidere, visto che questo vale tanti soldi, posso decidere di investire in esperti di sicurezza che buchino questi sistemi. Allora, ne abbiamo parlato il 26 maggio, nella nostra puntata del 26 maggio, che potete andare a riascoltare, magari la riproporremo anche durante questa estate. A proposito di sistemi di voto hackerati, il garante della privacy ha aperto un'istruttoria sull'hackeraggio di Russo, la piattaforma di voto del Movimento 5 Stelle, per verificare se c'è stata una violazione di dati sensibili. Pare che ci sia stata questa violazione, visto che, secondo informazioni che sono circolate negli ultimi giorni, Rogue One, che sarebbe l'hacker che ha dimostrato la vulnerabilità di questa piattaforma, ha messo online l'elenco dei donatori con le relative somme, gli indirizzi email e anche i numeri di telefono di alcuni iscritti. Vedremo che cosa succederà poi con questa istruttoria del garante della privacy. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da Essential Products, che è la startup fondata da uno dei creatori di Android, Andy Rubin, piuttosto famoso e noto, che ha raccolto altri 300 milioni di dollari, portando il finanziamento totale a 330 milioni. Essential Products produrrà uno smartphone che dovrebbe uscire sul mercato in autunno a $700. Mercato di obiettivo principale gli sono gli Stati Uniti, ma questo prodotto dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo. La Walt Disney ha annunciato che dal 2019 lancerà un proprio servizio di streaming video e che quindi interromperà il rapporto esclusivo che ha con Netflix. E qui parliamo quindi di un produttore fra i più importanti al mondo, con un catalogo vastissimo, pensate a tutti i cartoni animati e anche ai film, a Guerre Stellari ad esempio. Un produttore che distribuirà direttamente i propri contenuti. L'altra via è quella indicata da YouTube o Facebook, tanti utenti e distribuzione di contenuti prodotti da terzi. La notizia di questa settimana riguarda Facebook, che ha lanciato Watch, che è un nuovo servizio video che offrirà fra poche settimane, diciamo in via sperimentale, a una porzione di pubblico americano brevi contenuti originali prodotti da alcune società partner come la Lega Baseball e anche il National Geographic. Sempre Facebook ha annunciato che sta sperimentando un nuovo servizio video in diretta all'interno di Instagram. Molto interessante la possibilità per due utenti di prendere parte allo stesso live stream, quindi una diretta live con due utenti che possono partecipare e non necessariamente devono essere nello stesso luogo, devono essere su uno smartphone ma possono essere in luoghi diversi. Un'ultima notizia riguarda Tesla. Il club italiano dei proprietari di Tesla ha realizzato a Paestum il record mondiale di autonomia per una Tesla. Utilizzando un modello 100D, 5 piloti si sono alternati ogni 2 ore percorrendo 1078 km, ovviamente il tutto ad una velocità piuttosto contenuta, velocità media di circa 40 km all'ora. Parliamo spesso 2024 di intelligenza artificiale, della capacità delle macchine di apprendere e quindi di imparare un mestiere e poi riprodurlo su vasta scala. Poche macchine possono fare in alcuni campi il lavoro di molte persone. Allora, un buon esempio è quello che ci propone Gianmauro Calafiore, che è il fondatore di Loop AI Labs, una società fondata negli Stati Uniti che si occupa di cognitive computing, comunque di macchine capaci di riprodurre un'attività che fino all'altro ieri pensavamo potesse fare solo una persona umana. E qui poi apriamo il tema dell'attenzione che dovremmo porre come società, come forze politiche anche, alla capacità di queste macchine sempre crescente di rubare posti di lavoro. Questa è una tendenza che vedremo sempre più marcata nei prossimi anni, ma è giusto parlarne ed essere consapevoli di quello che sta accadendo per cercare di abbozzare alcune soluzioni, perché tanto queste cose sono inevitabili. Sentiamo quello che ci ha raccontato Gianmauro Calafiore in una intervista che abbiamo realizzato e trasmesso qualche mese fa. Allora, ho avuto questa idea nel 2011 di realizzare una piattaforma che potesse interpretare i dati senza l'ausilio degli umani e senza programmare il software. E quindi ho fatto una ricerca, ho detto dove posso trovare le risorse per fare questa piattaforma, visto che io non sono uno scienziato. In California. E chiaramente ho trovato in California un laboratorio che si chiama Stanford Research Institute, che è un laboratorio che principalmente lavora per i militari, quindi il Navy, il DARPA, eccetera. Sì, all'Università di Stanford. Sì, esatto, l'Università di Stanford. E questo laboratorio è un laboratorio tra l'altro molto importante, che ha sviluppato una serie di tecnologie tra cui il mouse, il fax, uno dei primi nodi DARPA, nata internet. Sì, tra l'altro una cosa un po' più recente che molti utilizzano, almeno quelli che hanno un iPhone, Siri. Siri è nata nello stesso laboratorio. Sì, sì, sì. E quindi ho detto, visto che loro hanno investito 200 milioni di dollari per sviluppare questa tecnologia militare di intelligenza artificiale, hanno assunto queste persone, i più bravi del mondo, li hanno portati tutti quanti lì, ho detto inutile che vado a cercare in giro, vado direttamente alla fonte e mi risparmio un passaggio. E da lì ho trovato appunto il CTO dell'azienda, di Loop AI Labs, il chief scientist, che arrivano appunto da questo progetto militare. Hanno investito 3 anni di ricerca e sviluppo e da lì hanno costruito questa piattaforma, che poi adesso è una soluzione commerciale da giugno del 2015, di cognitive computing unsupervised. Esatto, adesso poi spieghiamo che cosa vuol dire. Adesso tu l'hai fatta molto semplice, tutta questo incontro, sei andato, non è che hai bussato e suonato il campanello degli Stanford Labs, no, ti posso dire anche come è successo.